Europa 24. Ukrainian Prime Minister, remembering me myself, because when I was young, I organized the first summit between the European Union and Ukraine. That was on the 5th of September 97. I had exactly his age. Scherza il presidente del Consiglio europeo Jean-Claude Juncker nella conferenza stampa con il primo ministro ucraino in visita a Bruxelles. Mi ricorda me quando ero giovane, fui io ad organizzare il primo incontro tra Europa e Ucraina, dice Juncker, ma era il 1997, 20 anni fa. Un saluto da Anna Migliorati, appuntamento anche oggi con l'Europa e con il dibattito aperto in Europa sul rinnovo delle sanzioni alla Russia e la tensione al confine ucraino nel Donbass che torna a salire tra Mosca e Kiev, arriva appunto a Bruxelles, dicevamo, il primo ministro ucraino. Is that we have to disperse the second tranche in the next. L'Europa ha annunciato, lo sentite, il presidente della Commissione Juncker ha dato il via libera ad una nuova tranche di finanziamenti per Kiev, tranche di aiuti da 600 milioni di euro. Il paese ha effettuato riforme più massicce che nei 20 anni precedenti in 2-3 anni, ha detto ancora Juncker. Gli ucraini hanno diritto a ricevere qualcosa indietro. Supportiamo l'Ucraina non solo nel suo conflitto con la Russia, tutti, soprattutto i paesi vicini, devono rispettare la sovranità del paese. Il monito di Juncker, che dice, è per noi un partner strategico. E dibattito, dicevamo, però aperto tra i partner europei sul rinnovo delle sanzioni alla Russia. Per il rinnovo la Gran Bretagna di Theresa May, che ieri lo ha detto chiaramente anche al premier italiano Gentiloni a Londra, lo ha detto Angela Merkel, secondo cui gli accordi di Minsk non sono stati ancora attuati e le sanzioni alla Russia non possono essere tolte. Nessun automatismo nel rinnovo delle sanzioni, dice invece per l'Italia il ministro degli esteri Angelino Alfano. Dibattito aperto, mentre nella notte negli Stati Uniti c'è stato un altro importante incontro a Washington, faccia a faccia tra l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Federica Mogherini e il neo segretario di Stato americano Rex Tillerson. Primo incontro in un clima atteso tra Europa e Stati Uniti con l'amministrazione Trump. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno un rapporto di lunga data, lavoreremo per farlo avanzare sulla base dei nostri principi e dei nostri interessi, sono state le parole di Federica Mogherini. Torna per riaprirsi anche un altro annoso dossier europeo che riguarda anche direttamente l'Italia, quello degli OGM. Battaglia a tutto campo nel Parlamento europeo contro l'autorizzazione europea per la coltivazione di piante transgeniche sul territorio comunitario. Il 21 marzo la Commissione Ambiente del Parlamento europeo voterà infatti circa questa autorizzazione all'uso di circa 20 nuove varietà e sui mais già autorizzati. Per il MON 810 resistente agli insetti si è trattato del rinnovo, ma proprio ieri è iniziata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la fase orale della controversia sulla coltivazione in Italia di questo tipo di mais transgenico da parte di coltivatori friulani. Paolo De Castro, parlamentare europeo e presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, fa il punto. L'Europa ha lasciato liberi gli Stati membri di decidere se coltivare o meno e il nostro paese, assieme a molti altri, dovrebbero essere 17 paesi europei che hanno vietato la coltivazione di OGM nel loro territorio, per cui diciamo che da questo punto di vista la legislazione europea è chiara. Qui parliamo ovviamente di OGM di vecchia generazione, di biotecnologie tradizionali, ecco, perché poi ci sono le nuove biotecnologie sulle cosiddette new breeding techniques, cioè le tecnologie che non spostano geni da una pianta all'altra ma che lavorano all'interno del patrimonio genetico, sulle quali pende questo parere della Corte di Giustizia che tutti aspettiamo, speriamo prima dell'estate, possa dirimere, diciamo, questo grande quesito. Sono o non sono OGM? Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E Europa Notte, questa sera alle 21, torna al consueto appuntamento con l'Europa, alle 14 invece ci risentiamo lunedì. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.